Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari gastronauti. Bene, oggi parliamo di un tema che è abbastanza solito su, diciamo, su questa radio, sulla trasmissione Il Gastronauta. Parleremo di panettone, ne parliamo tutto l'anno perché abbiamo lanciato da sempre questo slogan, il panettone tutto l'anno. Bene, ancora di più se ne parla a Natale, ora e sicuramente per queste giornate. Ma ne vorremmo parlare in maniera un po' particolare, anche perché sono rimasto molto colpito andando un po' in giro per supermercati o anche per, diciamo, pasticcerie. Io mi riferisco a Milano, ma so che sicuramente questo fenomeno esiste un po' dappertutto, di veramente sbalzi di prezzo incredibili, in molti casi anche degli stessi marchi di panettone. E quindi vogliamo capire cosa succede in questo momento appunto sul mercato del panettone, vogliamo capire cosa c'è dentro, quali sono, diciamo, i costi più importanti che subisce sia l'azienda che il pasticcere stesso per confezionare un ottimo panettone. E ad esempio il lievito madre o pasta acida costa più o meno praticarlo rispetto al lievito di birra, e appunto le farine, quali differenze fra le farine, e ancora il burro, e ancora i canditi. Bene, cominciamo questo giro per capire un po' ed entrarci nel mondo del panettone da un produttore di farina. Andiamo da Piero Gabrielli, che è il direttore marketing del Molino Quaglia. Buongiorno Gabrielli. Buongiorno, salve Davide, buongiorno. Senta Gabrielli, volevo sapere, diciamo, le farine che vengono impiegate per la produzione del panettone, immagino che siano varie e immagino anche che ci siano costi molto variabili sull'utilizzo di queste farine. Sì, le farine sostanzialmente sono di due tipi, se vogliamo anche raggrupparle per categoria di costo. Sono le farine raffinate e le farine macinate a pietra, che ovviamente costano un po' di più, però ai fini della valutazione del costo della ricetta panettone, tutto sommato, la farina come il burro, come i canditi, non creano delle grandissime differenze di costo. Se noi analizziamo un prodotto di costo più basso e un prodotto di costo più alto, per cui direi che al di là dell'aspetto qualitativo, sicuramente le differenze che lei nota, e come diceva prima, non sono riconducibili ai maggiori costi di ingredienti, che incidono veramente poco. Quindi è la manodopera quella che incide sul costo finale di un panettone? Beh, sicuramente la manodopera, sicuramente la complessità di gestione del lievito madre, se si usa il lievito madre. Direi piuttosto, però, almeno da quegli studi che noi svolgiamo periodicamente all'interno del nostro centro di ricerca, direi che piuttosto è un assortimento troppo vario delle pasticcerie artigianali, che poi si ripercuote anche nei costi del panettone, che come sappiamo è un prodotto legato alla ricorrenza. Ecco, già se il panettone venisse prodotto per un periodo più lungo dell'anno, probabilmente molti costi si potrebbero smorzare. Ecco, quindi lei dice, qui io vado a nozze, che se si potesse produrre il panettone tutto l'anno, come io da anni sto insistendo, probabilmente sì. Si pagherebbe anche meno a Natale il panettone, così? Sì, perché consideri che il costo più critico sicuramente è legato alla gestione del lievito madre. Lei pensi, un lievito madre prodotto e rinfrescato per un periodo molto lungo, per dei mesi o per tutto l'anno, sicuramente questo ha delle ripercussioni positive sull'organizzazione del laboratorio e quindi anche sulla riduzione dei costi. Bene, numero verde 800 24 00 24 349 238 6666, messaggi SMS. Giuseppe da Roma, buongiorno. Grazie. Niente, volevo dire che io già dall'anno scorso ho iniziato a farmi i panettoni in casa. Bene, questo è qualcosa per risparmiare perché costano molto? Iniziai per curiosità, poi anche per risparmiare, però poi ho scoperto, insomma, che il risparmio, se si usano materie prime di qualità, come di solito si fa quando le cose si fanno in casa, non è che sia altissimo, però l'esperienza è molto bella, si ottengono dei panettoni che è difficile pagare in pasticceria meno di 20-25 euro e vengono a costare sui 6 euro circa, 6 euro e mezzo ciascuno, sono di materia prima più il lavoro. Quindi lei risparmia quanto? A pari qualità sì, molto. Ah, quindi però anche lei spende intorno ai 20 euro, mi pare di capire. No, a me un panettone viene a costare attorno ai 6 euro. Ah, attorno ai 6 euro. Il paragone lo faccio con degli ottimi panettoni di pasticceria che non si trovano giustamente a meno di 20 euro più o meno. Senta, ma lei usa il lievito madre oppure? Sì, lievito madre autoprodotto. Ah, quindi insomma veramente una cosa, come posso dire, fatta sui generis proprio. Grazie Giuseppe da Roma. La ringrazio molto. Bene, se continuiamo a parlare di ingredienti, perché abbiamo visto appunto il costo della farina non è il costo che incide molto di più. Allora vediamo se è il costo del burro. E allora voglio chiedere a Andrea Filippi, che è la pasticceria Filippi di Zanè in provincia di Vicenza, che produce da anni, è stato uno degli antesignani di introdurre al posto del burro l'olio d'oliva extravergine. Buongiorno Filippi. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Ecco, buongiorno. Volevo capire, tu anni fa hai iniziato questa produzione appunto, ma lo hai fatto perché per motivi economici, cioè costa meno usare l'olio d'oliva extravergine o costa di più usare il burro? Ma no, sostanzialmente non è stata una scelta dettata da motivazioni economiche, è stata una scelta dettata da motivazioni qualitative e comunque con l'idea di voler dare un prodotto diverso, al consumatore, un'alternativa a quello che è il grasso animale, a quello che è il latte, diciamo, i suoi derivati. A livello di costo, onestamente, tutti sappiamo che un olio d'oliva extravergine di buona qualità costa sensibilmente di più del burro. Ecco, non è però che questo incida di più nel panettone, perché alla fine se ne usa di meno. Ecco, per motivazioni tecnologiche non si può mettere 16, 17 o 18% di olio all'interno del panettone, come invece lo si può fare tranquillamente con il burro e anche più, ma se ne mette meno. Ecco, io arrivo all'8-9%. E questo alla fine, diciamo, smorza un attimo quello che potrebbe essere invece un'incidenza molto maggiore. Senti Andrea, ma quanto incide l'olio d'oliva extravergine, diciamo facciamo 100, i costi complessivi di un panettone? Più o meno, diciamo così, immagino che non c'è un dato preciso. Sì, faccio un po' di fatica perché, ecco, come dicevano anche negli interventi precedenti, è molto pesante, c'è molto pesante l'incidenza della manodopera. Comunque io penso che un 15-20% incida comunque. Vabbè, comunque è una bella incidenza. Sì, è una bella cifra. Anche quindi anche il burro, anche se tu non usi il burro, però puoi sapere che questa è, diciamo, è un costo di incidenza importante. Certo, ecco, io sono convinto che comunque per fare un buon panettone ci vogliono delle ottime materie prime, ecco, e secondo me le materie prime comunque incidono notevolmente, insomma, ecco, a livello, cioè sul costo del prodotto finito. Non so, forse sono in discordanza con quanto detto prima, ecco, in un intervento precedente. Ma io vedo che mi arrivano degli SMS in cui ci sono dei panettoni che costano meno di 2 euro, quindi mi sembra così difficile poter produrre, ma sicuramente ci sono delle politiche di marketing che poi affronteremo sicuramente. Bene, grazie Andrea Filippi e grazie a Piero Gabrielli. A presto. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di panettoni, come avete sentito prima. Stiamo trattando molto di prezzi perché veramente i dislivelli sono tanti. Allora viene da chiedersi qual è la differenza, perché un panettone al supermercato di marchi industriali, diciamo, ha dei differenziali enormi, addirittura di 10 euro, mentre anche in pasticceria sicuramente si notano delle sensibili differenze. Questo cosa dipendono? Semplicemente da politiche commerciali, dagli ingredienti o da qualche altra ragione? Bene, e io voglio sentire, tantissimi radioascoltatori stanno chiamando, mi segnalano: il balocco a Modena si trova a 2 euro, il Tremaria 15. Qual è il prezzo giusto? Chiede Marco. Beh, Marco, questo che stiamo cercando sicuramente di risolvere. Parli anche dello scandalo dei prezzi dei cioccolatini, mi dicono, venduti a noi pasticceri a 25, mi sembra, euro al chilo e nei supermercati a 10 euro al chilogrammo. Beh, caro amico, questo è il problema che esiste per moltissimi prodotti. Ma sentiamo Fulvio dalla provincia di Milano, un radioascoltatore. Buongiorno Fulvio. Buongiorno a lei Paolini. Mi dica. Volevo intervenire per dirle questo. Qualche anno fa ho avuto occasione, per motivi di lavoro, di venire a contatto con un'azienda che di mestiere, una multinazionale che fa aromi. Sì. E ecco, una componente che non viene citata, non parlo solo del panettone, diciamo in questo caso del panettone, è il cosiddetto aroma di panettone. Sì. Che cos'è? Sostanzialmente io l'ho proprio visto in produzione. È un aroma che è quello che poi emerge quando uno taglia il panettone, no? Capita anche nelle brioche, eccetera. Questo ve lo dico perché. Perché a parità di prodotto, con dei prodotti di base più scadenti, con un buon aroma si può creare anche un panettone che sembra sostanzialmente, almeno all'olfatto, buono, ma in realtà poi all'interno ha dei componenti qualitativi molto bassi. Grazie Fulvio, abbiamo capito esattamente la sua domanda. Numero verde 800 24 00 24 e io passo la palla a un produttore di panettoni molto noto veneto, che è Dario Loison, al quale chiedo appunto una risposta a questo. Dario, il discorso degli aromi è importante nei panettoni? Importantissimo Davide, grazie tanto della chiamata, è importantissimo. Noi abbiamo fatto una scelta di aromi naturali e quindi capisco perfettamente quello che ha detto il signore, il tuo ascoltatore qualche minuto fa. La scelta è stata diametralmente opposta, cioè sposare al massimo la naturalità, la trasparenza negli ingredienti che sono perfettamente chiari in etichetta. Noi non usiamo questi blend di aromi che sono sostanzialmente comunque una miscela di agrumi e di aroma burro che conosco e che ho sempre visto in passato che utilizzava mio padre nella storia e che hanno probabilmente utilizzato tanti. Noi no, non più perlomeno, da almeno 10 anni la scelta è totale di pulizia, ecco, di trasparenza e di artigianalità al massimo. Dario, però quando si legge nelle, diciamo, negli ingredienti c'è scritto aromi molte volte, sono semplicemente così e non c'è una distinzione, quindi il consumatore non sa. Perfettamente d'accordo, noi scriviamo aromi naturali e descriviamo anche quali aromi. Ecco la scelta di trasparenza in etichetta. Chi scrive aromi può utilizzare aromi sintetici, come ha detto il signore. Quindi la parola aromi nasconde un po' di tutto dentro ed è difficile capire che cosa. Bene, sentiamo Gabriella, rimani con noi Dario, Gabriella dalla provincia di Milano. Buongiorno Gabriella. Buongiorno. Senta, volevo solo sapere che differenza c'era tra lievito madre e lievito naturale. Bene. Perché sul panettone c'è scritto quasi tutto il lievito naturale. Bene, le faccio rispondere da un grande esperto, però prima di passare la parola anche a Eginio Massari, voglio leggere un altro diciamo radioascoltatore che ha mandato un SMS dove dice: ma è vero che a livello internazionale non si può usare il lievito naturale? Questo mi sembra così un SMS non basato sulla realtà. Comunque, Eginio Massari, buongiorno. A voi. Buongiorno, ha sentito questa signora che chiede la differenza? Sì. Prego, le prego di rispondere, grazie. Allora, non c'è nessuna differenza tra lievito naturale, lievito madre o pasta agita, è sempre lo stesso prodotto, farina e acqua, fermentato con una tecnica molto evoluta che dà la lievitazione fermentativa. E comunque, parlando di questo prodotto, all'estero si fa il pane, non si fanno dolci. In Germania, in Francia, come in Italia, si fa il pane sempre col lievito naturale. Non è assolutamente vietato in nessuna parte del sì, mondo. Sì, appunto, mi pareva. E soprattutto negli Stati Uniti, a San Francisco, c'è una tradizione da secoli. Gino, rimanga con noi. Voglio sentire Franco da Padova, un altro radioascoltatore. Prego Franco. Pronto Franco? Bene, Franco non risponde, continuiamo. Allora, Mario da Novara, buongiorno Mario. Buongiorno. Prego. Ieri sera mi hanno regalato un panettone, io faccio il medico e spesso me ne regalano, un panettone di una rinomata pasticceria di Novara. Era immangiabile, vecchio di probabilmente mesi, confezionato con la tipica confezione di plastica delle industrie, piccole industrie che fanno panettoni, con delle materie prime immangiabili, io l'ho buttato immediatamente via. Siccome questo avviene spesso negli anni passati, io vorrei capire se i NAS o chi è predisposto a fare questi controlli non verifichi che queste pasticcerie non vendano non nei loro prodotti, ma vendano dei prodotti infimi guadagnandoci 10 volte tanto. Senta Mario, ma non c'era la data di scadenza del panettone? Non c'era scritto nulla, era una confezione di carta con il nome della pasticceria e dentro c'era una confezione di plastica con scritto nulla, per cui per me era fatto dalla pasticceria. Beh, a meno che questo pasticcere non sia talmente in malafede che ha comprato un dei panettoni e l'ha involtati. Sì, prego. Posso dire che io, essendo medico e avendo una certa età, ricevo spesso da molti anni regali e le dico che, a parte delle pasticcerie selezionate dove vado a comprarmelo, e le conosco a Milano, a Como, a Novara, la maggior parte delle pasticcerie vende questo tipo di panettoni, che sono molto ma molto meno buoni dei panettoni industriali. Non faccio nomi, ma ci sono alcune industrie grandi e piccole che fanno degli ottimi prodotti. Quindi volevo segnalare di stare molto attenti a comprare il panettone di pasticceria se non si conosce la pasticceria. Bene, ecco, questo sì, va bene a, diciamo così, a porlo, perché sicuramente io, se fossi lei, andrei in questa pasticceria a farsi rendere conto di questo, però non facciamo di tutto un erbo un fascio, perché se magari ripetutamente mi è arrivato un panettone di questa pasticceria. Vede, il problema è che io non ho tempo, non ho voglia. Allora diciamo che c'è già un segnalavo a lei. No, dico, c'è già un precedente di questa pasticceria. Allora mi sembra anni. Allora, è un fatto singolo di una pasticceria. Sì, bene, comunque grazie Mario da Novara. Bene, io voglio tornare a Loisone e Gino Massari. Stavo chiedendo prima, visto che ci sono differenze di prezzo enormi tra pasticceria e pasticceria, ma soprattutto poi lo vedremo il problema dei supermercati, che qui avrò 20 sms che mi segnalano degli sbalzi di prezzo degli stessi marchi da supermercato a supermercato. Addirittura mi parlano di 1,99 di un noto marchio, in altri posti mi parlano dello stesso marchio 12 euro, per capire un po', ma poi diciamo che risolveremo anche questo problema. Io voglio chiedere a Loison, cosa incide soprattutto sul prezzo di un panettone? Qual è, diciamo, la mano d'opera, appunto, per la lunga lavorazione del lievito madre e delle ore che ci vogliono per produrre un panettone? Non so, gli ingredienti, la farina, il burro e tutto il resto. Loison. Beh, guarda Davide, io ho 15 collaboratori in produzione, quindi noi chiaramente riusciamo a produrre un po' di più e fare un po' di attenzione nei costi. Chi ha una sola impastatrice e deve attendere 2 giorni per produrre un panettone, magari per produrne 50 soli, è chiaro che ha dei costi diversi da noi. Quindi noi siamo un po' più attenti e riusciamo ad essere un pelino più competitivi. Non saremo mai competitivi come l'industria, che può permettersi prezzi all'ingrosso di 5, 4, 6 euro. E quindi chiaramente sul mercato c'è un divario enorme di prezzo. Anche qui a Vicenza abbiamo visto già 15 giorni fa 50 centesimi su 50 euro di spesa. Questo è purtroppo utilizzato come killer price in questi momenti, fuori discussione. Quindi ci sono molte offerte, molte varietà di prodotto. Il consumatore deve essere un po' più attento. Ha ragione il dottore di prima, ci sono alcuni pasticceri che esagerano, però questo fa parte dell'attenzione e sono d'accordo quanto tu hai detto, bisogna segnalarlo. Mario da Como, un radioascoltatore, prego. Buongiorno. Mi dica. Niente, io volevo chiedere che innanzitutto un panettone, per essere buono, bisogna guardare gli ingredienti. Nel senso, meno ce n'è, meglio è. Lei sappi che il cedro al chilo costa 12 euro, perché io sono nel settore. Sì. 9 euro i canditi, il burro, la manodopera, lo stampo, la scatola. Come si fa a vendere a 2 euro? È una cosa impossibile. Eh beh, questo ce lo stiamo chiedendo tutti, ma poi vedremo. Caro Mario, sicuramente lei, se è nel commercio, sa che ci sono delle politiche. No, io sono uscito mezz'ora fa da una pasticceria che stava producendo panettoni. Sì. E le assicuro che ci sono pasticcerie che lavorano ancora come una volta, perché lei sta intervistando Massari ed è un luminare del settore. Benvengono queste persone, perché non tutti lavorano in un certo modo. Anche per il lievito, c'è lievito e madre e ci sono i semilavorati, che in un attimo si fanno, mentre c'è gente che deve lavorare dall'inizio alla fine, hanno dei costi. Caro Mario, io sono completamente d'accordo con lei, questo che sto cercando di dimostrare, che ci sono panettoni e panettoni. il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di panettoni. Io voglio rispondere al medico di Novara, il quale ogni anno gli viene data così questa fregatura di un panettone che sembra stantio dell'anno scorso. Ebbene, ho ricevuto qui non so quanti sms di risposta. Si tratta di capire che chi l'ha donato non l'avesse a casa dall'anno scorso. E un altro ancora, ma dove l'ha preso? Dai cinesi. Caro medico di Novara, come vedi, qualche dubbio probabilmente ce l'hanno in molti, oppure che, come si dice anche qua su un altro sms, sia comprato dall'industria e probabilmente sia incartato con la carta intestata della pasticceria. Questo può anche essere da mettere sul conto, perché se le succede ogni anno, io penso che possa essere anche così. Io voglio tornare a Igino Massari, perché voglio chiedere a Igino, lui che è un grande esperto, voglio chiedere questo: qual è, diciamo, il costo principale su un panettone artigianale fatto come Dio comanda? Cos'è che incide? La lunga lavorazione, gli ingredienti? Credo che questo sia abbastanza importante da capire per i nostri radioascoltatori, Gino. Beh, senz'altro. Intanto iniziamo a dire che il panettone artigianale appartiene a un mondo di affetti sinceri, di cose buone, pulite, semplici e genuine. È prima cosa. Seconda cosa, un panettone artigianale, vorrei fare un po' una retromarcia parlando del dottore che ha parlato prima. C'è pasticcere artigianale con la A maiuscola e un artigiano con la A minuscola, come in tutte le realtà, sia nell'industria che in qualsiasi società, per il semplice motivo che ognuno di noi si comporta come lui è, come è fatto. Perciò la ricerca delle cose buone non è poi così tanto semplice. Il panettone artigianale è come andare a fare un vestito su misura, cioè le materie prime di altissima qualità che la grande industria non le può fare perché non può fare nicchie di mercato e ci sono un'infinità, ma la base principale è il mestiere, la freschezza, l'immediatezza. Posso dire che nel panettone artigianale, oltre che comprare un dolce, si compra la passione della persona che lo fa, l'intelligenza, le capacità, e dici no, non basta questo, è vero. Ci sono materie prime che sono delle chicche e ci sono delle materie prime che, per esempio, nei canditi ci sono dei pallini da schioppo che alla fine la gente non vuole più i canditi, ma ha ragione, perché le canditure così schifose non hanno il diritto di essere messe sul mercato. Eppure ci sono aziende che hanno le presunte filiere imposte dallo Stato che pensano di fornire qualità, in realtà sono solo bolle di sapone e di scartoffie che servono solo ai burocrati, ma non con la gente che ha un cervello. Ah, volevo dire che ci sono medici e medici, ci sono quelli bravi e quelli meno bravi, e quelli che hanno bisogno di scartoffie e quelli che ti guardano negli occhi e ti dicono che cos'hai. Perciò in ogni attività, in ogni mestiere c'è la capacità individuale di ognuno di noi per costruire una società migliore. Dipende solo da noi cosa vogliamo fare, cosa proporre alla gente, e praticamente il panettone è il sogno del Natale. Bene, grazie Gino, come al solito sei sempre stato chiaro, chiarissimo, e quindi grazie tante del tuo intervento. Voglio sentire Luciano da Bolzano. Buongiorno Luciano. È caduta la linea. Sentiamo Fabio da Milano. Buongiorno Fabio. Dai. Mi rilasciamo al discorso del medico di Novara. Io ho un'azienda vinicola e ho tra i miei clienti alcune pasticcerie, e c'è una pasticceria che conosco che praticamente tutti gli anni, tra Pasqua, un po' prima di Pasqua, un po' prima di Natale, nella zona dove ci sono tutti i cartoni da buttare via per il riciclaggio della carta, compaiono immancabilmente scatole con scritto panettone anonimo, viennese anonima, piuttosto che veneziana anonima, scusa, piuttosto che colomba artigianale, eccetera, eccetera. E quindi, come dire, purtroppo il costume, evidentemente, magari anche se i prodotti sono sicuramente fatti di qualità, perché poi dentro, a differenza di quello di Novara, c'è comunque qualcosa che è decente come panettone, però, come dire, c'è questa idea forse che spesso si usano delle scorciatoie che sono in tutti i settori, chiaramente è possibile seguire, ma che poi alla fine non premiano dal punto di vista della qualità e comunque non rendono giustizia al settore di cui ciascuno fa parte. Io parlo per il mio caso, un'azienda vinicola, puoi ben sapere quante siano le scorciatoie che si possono prendere in questo lavoro qua. Certo. e alla fine chi ci rimette è colui che paga. Bene. Un prezzo convinto di portare a casa qualcosa che, uso il termine magari non è, però la coincidenza delle apparizioni delle scatole è, visto che i Maya ci hanno lasciato vivere ancora un giorno, direi che è un po' più che una coincidenza, ecco. Grazie Fabio. Sentiamo Bruna da Parma. Buongiorno Bruna. Io sono, abito a Parma ma sono lombarda, e un po' per l'età e tutto quanto ho avuto la grande fortuna di mangiare dei panettoni giusti, cioè con tutta quella poesia che ha messo dentro il signor Igi, non mi ricordo più il cognome. Massari, ecco. Sì, pasticceria Veneto di Brescia. Ecco, dunque, allora dal punto di vista industriale c'erano i famosi Motte Alemagna, però insomma in casa mia venivano leggermente snobbati, perché il panettone che apriva mio nonno alla fine del pasto della cena di Natale era qualcosa di speciale che si metteva poi in un punto un po' in alto, ma che fosse caldo, in modo che il contenuto si amalgamasse e si sciogliesse e al momento di tagliare emanasse quel famoso aroma naturale. Sempre in casa mia si sono sempre presi dei panettoni artigianali, di quelli con la maiuscola, pagati logicamente, ma oggi io non riesco, cioè proprio quelli industriali proprio li scarto tutti, perché sono dei pan dolci, non sono dei panettoni. E anche quelli artigianali o sono troppo, non lo so. Bene, signora, insomma, ho capito sì, che difficilmente trova il panettone che lei vuole, quindi se non prende quello industriale, quello artigianale, è un po' dura trovare qualche cos'altro. Comunque la ringrazio, Bruna da Parma. Bene, i panettoni di una volta erano più buoni. Bene, si dice di moltissime cose così. Ora io voglio tornare al discorso dei supermercati, perché io qua ho una sfilza di SMS, saranno 30 che mi danno così degli prezzi ondivaghi un po' dappertutto, dello stesso panettone, d'altro, quindi bisogna ricordare anche che ci sono delle private label dei vari supermercati che sono gli stessi panettoni di marca che magari costano leggermente di più sui banchi dei supermercati. Ma su questo io ne voglio parlare con Roberto Lapira, che è direttore del Fatto Alimentare, che proprio recentemente ha pubblicato una tabella, appunto, di questi sbalzi, di una ricerca di questi sbalzi di prezzi dei panettoni degli stessi marche e sicuramente in supermercati diversi, per spiegare perché. Cioè, io voglio chiedere a Roberto, è chiaro Roberto che c'è una politica commerciale basata sul prezzo civetta, non può essere altro che così, non tanto sul contenuto del panettone. Tu cosa ne pensi? Ma vorrei dire una cosa molto chiara, che questo parlare male del panettone industriale mi sembra proprio fuori di melone, perché stiamo parlando del miglior prodotto industriale, di miglior prodotto di pasticceria industriale. C'è una ricetta precisa che prevede il burro, 2 giorni di lievitazione, è il miglior prodotto di pasticceria che si trova su tutti i supermercati. Questo deve essere una cosa molto chiara, non esiste un prodotto simile, è il migliore. 2, il prezzo. Certo che quando uno trova il panettone a 2 euro si fa tanti interrogativi, dice ma come sarà? Un panettone di 2 euro a 1,99 lo propone l'Iper in questi giorni qua. Altri propongono a 2,50, 3 euro. No, guarda che ci sono molti, ho avuto dall'Italia, dal resto dell'Italia, molti parlano di 1,99 di un noto marchio, quindi sono tanti. Sì, infatti è mai, 1,99, ma il problema è che la gente dice che panettone è. Quel panettone lì, come tutti i panettoni industriali, viene a costare alla catena di supermercati 5-6 euro, questo deve essere chiaro. Tutte le aziende vendono a quel prezzo lì. Il supermercato cosa fa? Sprezza, riduce il 50%. Questo è il discorso. Ma non possiamo parlare male in genere dei panettoni industriali, perché mi viene veramente da piangere, perché altrimenti le mamme non dovrebbero dare più merendine ai loro bambini. Questo è un concetto molto chiaro, deve essere. Questo qui, la seconda cosa. Il prezzo reale che paga i supermercati è questo qui, abbiamo detto 5-6 euro. Dopodiché sprezzano, svendono, regalano. Questa è una politica commerciale. Il confronto con i panettoni industriali è veramente difficile da fare. Perché? Perché in teoria noi dovremmo trovare al supermercato un panettone sugli 8-9 euro e in pasticceria un panettone su 20-25 euro. Questo è il confronto che si deve fare. Ah, sicuramente 20-25 euro sicuramente. È il costo di un panettone industriale, certo. Di un panettone artigianale, certo. Come delle paste, ma questo è normale. E al supermercato dovremmo trovare un panettone che costa quasi la metà. Questo è il confronto da fare. Siccome c'è una politica di prezzo assolutamente natalizia, in cui è forse l'unica volta insieme alla colomba di Pasqua in cui i supermercati spendono e quasi regalano un prodotto, ci perdono 3-4 euro a pezzo, questo deve essere chiaro, perché altrimenti ci perdiamo di casa. Bene, grazie Roberto, grazie, chiaro come sempre. Sentiamo Patrizia dalla provincia di Como, buongiorno Patrizia. Buongiorno, buona giornata e auguri a tutti. Allora, intanto volevo dire al signor Roberto che le merendine dei bambini comprate nei supermercati, bla bla bla, è meglio una sana torta. Tutto il marketing dei costi, dei panettoni, sorvoliamo, non ci riguarda. Io ho trovato una pasticceria ad Albate barra Como, frazione di Como, oltre alla gentilezza che nei supermercati non si trova, va bene, oltre alla gentilezza ti fanno vedere come lo lavorano, te lo offrono anche quando vai ad aprile, perché lo fanno tutto l'anno, piuttosto che la colomba a comprare due cannoncini, e a quel punto lo stomaco sente la differenza, quanto digerisci quello industriale, quanto digerisci quello della pasticceria artigianale. Punto. Io poi sono una contestatrice. Bene. E faccio parte del passato. Ma va bene, io ci do voce a tutti, quindi come abbiamo sentito Roberto Lapira ha dato la sua interpretazione, Patrizia della provincia di Como ha dato l'altra, è molto bello perché c'è un dibattito aperto. Sentiamo Fernando da Viterbo, buongiorno Fernando. Signor Paolini, una cortesia, siamo circa il 30% della popolazione che soffre di intolleranza al lattosio o allergia alle proteine del latte. E non si trova mai un panettone che sia fatto diversamente da burro e latte. Ma guardi Fernando, che esiste una linea in farmacia che sicuramente hanno in questo periodo sia Pandoro e panettoni adatti, diciamo, a quello che lei sta richiedendo. Poi credo che non sia solamente questa linea in farmacia che conosco io, ma credo che ce ne siano anche altri, quindi diciamo che si sta è una domanda sempre in grande crescita anche per molti altri prodotti, e ci sono molte aziende che si stanno orientando proprio verso queste produzioni. Grazie comunque. Sentiamo Giulio da Treviso, buongiorno Giulio. Buongiorno a voi. Volevo chiedere, io leggo sempre sulle etichette mono dei gliceridi e le acidi grassi. Sì. Non mi sembra che sia un ingrediente che faccia molto bene. Va bene. Volevo chiedere al maestro Massari se si può. Purtroppo Massari non c'è, è già andato via, ma questo non è sui suoi panettoni, glielo posso garantire. Lo chiederemo a un produttore di farine. Grazie a Giulio da Treviso. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di panettoni. Ne abbiamo sentite di tutte, abbiamo sentito chi mangia panettoni vecchi ogni anno, abbiamo sentito chi ama il panettone industriale, chi invece ama quello artigianale. Credo che sia, diciamo, molto bello sentire un po' tutti i pareri. Io voglio sentire un radioascoltatore, Gino da Mestre, buongiorno Gino. Sì, buongiorno. Niente, io volevo dire che sono cresciuto, volevo spezzare una lancia in favore anche della produzione industriale. Io sono cresciuto negli anni 60, 50, 60 col panettone in Alemania, abitavo in via Masaccio, lì vicino a voi, e insomma quando era Natale c'era un profumo di panettone che girava per il quartiere, che era una cosa incredibile. La domanda, Gino. La domanda, io sono convinto che il panettone industriale, sono cresciuto, ho mangiato sempre quello e disturbi non ne ho mai avuti, ho 72 anni e mio stomaco è sempre stato bene. L'ho visto anche fare il panettone in Alemania, perché noi che eravamo lì vicini ci facevano ogni tanto, c'era la possibilità anche di entrare e vedere. Bene. Vedevo anche quello che usavano. Grazie Gino, lei ha parlato di un panettone storico, ovviamente diciamo quello che ha dato il via alla produzione di panettone, ma guarda caso, abbiamo in linea la persona che ora ha questo marchio e produce il panettone in Alemagna. Buongiorno Alberto Bauli. Buongiorno Paolini. Buongiorno. Come ha sentito, hanno fatto il panegirico al marchio che ora lei produce, quindi credo che sarà contento di questo. Si ricorda sempre il panettone Alemagna, cioè viene sempre nei ricordi. Senta Bauli, io voglio chiederle questo. Secondo lei qual è il prezzo, diciamo, più basso con cui si può produrre un panettone industriale e quindi poterlo vendere a certi prezzi nei supermercati? Ma anzitutto devo dire una cosa che nessuno ha detto. C'è una legge che noi abbiamo cercato di poter avere che regola le quantità, la qualità dei panettoni, si chiama prodotto DOP, denominazione di origine protetta, per la quale bisogna avere determinate caratteristiche. Il burro deve essere burro vaccino, non può essere inferiore al 16% e via dicendo. Quindi l'industria si è tutelata nella qualità con una normativa. E dal punto di vista industriale poi devo dire un'altra cosa. Noi abbiamo un ciclo produttivo che è esattamente uguale a quello dell'artigiano. 40 ore, lievito madre, lievito naturale, rinfrescato 365 giorni l'anno. Quindi non c'è una ragione di vedere nell'attività industriale un qualche cosa di negativo. Anzi, è molto più positivo, perché noi garantiamo con le analisi tutte le qualità dei prodotti. Cerchiamo i prodotti migliori. E questo fa nascere un prodotto che costa meno di quello artigianale, perché certamente noi tutte le attività che erano fatte manualmente sono state, nel limite del possibile, i trasporti, i tempi, automatizzate. Ma il processo è esattamente quello che hanno gli artigiani. Noi facciamo visitare la fabbrica alle scuole, facciamo visitare la fabbrica ai buyer della distribuzione, veniamo controllati, quindi... Senta Paoli, questo processo... No, io capisco bene, volevo solo chiederle questo: il consumatore può essere disorientato però di fronte appunto al panettone DOP con questi ingredienti di cui lei parla, mentre si trova di fronte al supermercato un panettone a 1,99. Quindi... Sì, ma dicevano prima che viene venduto dall'industria a 5-6 euro e poi per un effetto commerciale, che è un effetto civetta, viene svenduto e quindi viene ad essere... Non più valutato nel prezzo, ha delle cifre nelle quali il distributore perde un mucchio di soldi. Perché lo fa? Lo fa perché attira traffico, perché chi entra nel supermercato compra il prodotto a prezzo sotto costo e compra anche altri prodotti. Certo, c'è una legge che consente il sottocosto per 3 volte l'anno per 50 prodotti, non più di, mi pare che siano 2 settimane, di fatto è desueta e quindi il prezzo diventa un prezzo ad arbitrio del distributore. Bene, io Paoli la ringrazio molto anche della sua chiarezza. Grazie del suo intervento, grazie. Grazie a lei, dottor Paoli. Grazie, io vorrei andare ora da Fausto Marino. Fausto Marino è un mugnaio, chiamiamolo mugnaio perché è un mugnaio, e produce della farina di grandissima qualità. E addirittura viene macinata a pietra. Voglio chiedere a Fausto Marino appunto questo sulle farine. Ci è stato chiesto, diciamo, le farine di monotrigliceridi. Ecco, volevo capire da Fausto Marino di che cosa si tratta. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, i monotrigliceridi degli acidi grassi sono sostanzialmente degli additivi che vengono prodotti in sintesi, quindi chimicamente. Si tratta di questa, nella gestione di un panettone, nell'ingredientistica di un panettone si aggiungono queste sostanze sostanzialmente per migliorare la struttura del panettone, hanno sostanzialmente una funzione emulsionante, stabilizzante, conservante se vogliamo. Bene, rimani con noi Fausto, questo è importante perché cioè, quindi chi usa questo tipo di farine ovviamente lo fa per tenere lunga durata, quindi che il panettone duri nel tempo. Sì, non si tratta di farine, sono proprio delle sostanze che vengono... Diciamo aggiunte, così, che vengono aggiunte nelle farine questo. Aggiunte nelle farine, sì, e aggiunte anche nella gestione del prodotto finito. Ci tengo a precisare che non è il nostro caso, perché cerchiamo di lavorare tutto l'anno per un prodotto sano, genuino e soprattutto tradizionale e artigianale. Ecco, senza aggiunte. Chiedo anche a te questo, ci sono differenze importanti di prezzo tra farina e farina? Sì, assolutamente sì. Diciamo che la gestione di una farina, la macinazione di una farina, diciamo così, artigianale, che preveda sistemi di macinazione, sistemi agricoli, biologici certificati come nel nostro caso, è una filiera con grossi sacrifici che però se ben gestita viene premiata e il prezzo però è, diciamo così, considerevole perché... Viene praticamente adottato un sistema di coltivazione, un sistema di macinazione che è totalmente tradizionale, totalmente artigianale, ecco. Bene, grazie Fausto Marino, ti ringrazio. Sentiamo Gianluca da Roma. Buongiorno Gianluca. Buongiorno, io mi volevo riagganciare agli argomenti proposti dal dottor Lapira e dal proprietario della Bauli per quanto riguarda la differenza tra i costi reali sostenuti dalla distribuzione e poi a quanto viene venduto. Suggerivo di spiegare magari con una promozione tipo sottocotto oppure, come si fa per i capi di abbigliamento, prendere il prezzo originario, barrarlo e specificare qual è il prezzo di vendita, perché il prezzo poi è l'unica determinante che il consumatore ha per, certo, per acquistarlo il prodotto, perché non è che può fare l'analisi chimica in casa per vedere se il lievito è quello madre piuttosto che quello prodotto in laboratorio. Però sì, no, c'è, cioè il lievito o birra o acida, madre acida, insomma, non è che ci sono molte altre cose per poterlo ottenere, Gianluca. Cioè, come diceva Misseri o via dicendo. Ecco, specificare. Bene. Questo prodotto. Beh, questo può essere un consiglio interessante. Sentiamo Ezio da Vicenza. Buongiorno, Ezio. Dottore, buongiorno. Premetto che non sono un dipendente della Bauli, ma volevo fare solo due considerazioni. Se il panettone, io lavoro sul settore alimentare, se il panettone si può trovare anche buono, buonissimo, sul settore diciamo artigianale, piccole pasticcerie, il pandoro secondo me dell'industria è insuperabile, cioè non ci si arriva lì. E dopo c'è da dire un'altra cosa, si parla spesso di panettone artigianale dei piccoli laboratori, ma ci sono anche fiorenti industrie di semilavorati che forniscono questi piccoli laboratori. Io ho fatto una prova, ho preso 3 panettoni di varie marche e li ho messi sul tavolo, ho fatto assaggiare a dei pasticceri perché io lavoro sul settore. E le devo dire che un panettone fatto da non una grossa industria ma una media industria come Corsini ha superato abbondantemente gli artigianali che si trovano, per cui vede. Ebbene, sì. Diciamo che se si fanno gli assaggi alla cieca di gente che magari non capisce fino in fondo o così si lascia basare solo sul gusto, probabilmente può succedere di tutto come succede sul vino. Grazie Ezio da Vicenza. Sentiamo Giovanni d'Asti. Buongiorno Giovanni, brevissimo perché devo chiudere. Velocissimo, buongiorno, io sono un cliente di Massari, dunque sfido anche l'ultimo ascoltatore a fare una prova con il panettone di Massari, quelli industriali. Volevo portare un'altra esperienza, io sono un architetto. 30 secondi, Velocissimo. Il problema in Italia è che i supermercati non vendono prodotti di qualità. Andate in Francia, andate in Inghilterra, andate in Germania e vedrete che ci sono altre, oltre a catene, ma ci sono dei supermercati che vendono prodotti di altissima qualità. In Italia purtroppo la qualità non è l'elemento centrale nella grande distribuzione, che è stata favorita dal signor Bersani, che ha distrutto il commercio di vicinato. Bene, grazie Giovanni. Quindi abbiamo sentito voci a favore, voci contrarie. È bellissimo questo fatto dei consumatori, che ognuno la pensa in maniera completamente diversa e non tutti la pensano alla stesso modo. Bene, io voglio raccontare brevissimamente, che sto per chiudere, un aneddoto mio che mi è capitato poche ore prima di venire in trasmissione per la passione del panettone. Sono entrato in un bar per ordinare un caffè, è uscito dalla pasticceria dal retro un signore che mi ha salutato, mi conosceva, ci eravamo conosciuti tanti anni fa, con 3 scatoloni di panettone. E mi ha detto: sai, io ho una passione sfrenata per il panettone, mi preparo il lievito madre a casa tutto l'anno e poi vengo in pasticceria qui al forno a farlo cuocere perché voglio vedere appunto il panettone, mi piace seguirlo dall'inizio alla fine. Bene, questa è la grande passione del panettone e io vi auguro un buon Natale, anche se al giorno di Natale sarò in trasmissione, e con un straordinario panettone scegliete voi, o quello dell'industria o quello dell'artigianato. Un caro saluto dal vostro gastronauta, vi do appuntamento domani alle 11.15 con il riposo del guerriero, ogni giorno con la pillola 11.05 23.05. Buona giornata a tutti.